La storia e la memoria di Dino Pesole. Negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, l'Europa è un continente che vive in pace, pieno di fiducia nel futuro, nella tecnologia, nel progresso sociale. Toby, il protagonista della storia che abbiamo deciso oggi di raccontarvi, è un giovane francese che nel 1913, dopo aver viaggiato in un continente cosmopolita e ricco di stimoli, parte da Limoges per andare a lavorare a Norimberga. In 12 mesi il giovane impara la lingua, lavora fianco a fianco con i tedeschi, visita i luoghi e le città. Torna in Francia nel giugno del 1914 per il servizio militare, senza immaginare che 2 mesi dopo sarebbe esplosa la follia della guerra. L'Europa piomba nella catastrofe, nel buio di un conflitto che provocherà oltre 10 milioni di morti. Toby, come milioni di altri giovani, è ora nell'inferno della trincea. Quello di Vevre, di Verdun, dell'Argonne e a fianco delle truppe italiane sul Piave. A lui, francese appena tornato dalla Germania, tocca sparare a quelli che qualche mese prima erano suoi amici. Lo storico ed economista Thierry Vissol, dopo aver lavorato a lungo per le istituzioni europee, è ora consigliere speciale per la comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Lo abbiamo invitato questa sera qui con noi a Radio 24 per parlare insieme del suo ultimo libro, Toby, dalla pace alla guerra, storia esemplare di un qualunque soldato d'Europa, pubblicato da Donzelli. Buonasera Thierry e bentornato. Buonasera Dino, grazie dell'invito. Toby non è un personaggio qualunque nella vita di Thierry Vissol, è il nonno, anche se il libro coglie il pretesto della vicenda del nonno per poi raccontare, come ci spiegherà Thierry tra poco, di altro. Dal soldato Toby, che viene arruolato il 17 agosto del 1914 nel 138esimo reggimento di fanteria di Stanza a Bellac, una cittadina vicino a Limoges, ha ereditato un archivio di inestimabile valore. Ecco, cominciamo proprio da questo, l'archivio di tuo nonno, Thierry. Sì, io sono un amante dei solai, delle casse, di tutte le vecchie cose, e quindi ho avuto la fortuna all'occasione di un cambiamento, diciamo, di mobili in una stanza, di ritrovare questa cassa di legno dove c'era scritto sopra guerra del 14 in una delle stanze del mio nonno. E aprendo questo ho trovato effettivamente non solo tutte le sue lettere, taccuini, foto della guerra del 14, ma anche delle lettere che aveva scritto al suo padre, perché la sua mamma era morta, dunque scriveva spessissimo al suo papà, dalla Germania quando lui ci lavorava. Poi ho ritrovato anche in altri posti tutti un sacco di album delle sue visite in Inghilterra e in altri paesi europei. Quindi avevo qua un archivio estremamente importante di un giovane un po' cosmopolita che parlava più lingue, che aveva viaggiato e lavorato in altri paesi, e quindi mi è sembrato che questo sarebbe stato veramente interessante, utilizzare questa storia individuale per raccontare la storia. E diciamo, infatti nel libro c'è una enorme documentazione, materiale fotografico, lettere, e poi c'è anche una curiosità, se vogliamo, perché Toby sosteneva di non aver ucciso nessun tedesco, ma è vero questo? E questo è uno dei punti di lavoro di questo libro, cioè di analizzare la maniera in quale questi giovani uomini, che facevano tutto altri mestieri che quello del soldato, che si sono ritrovati con delle armi in mano e di fronte a delle persone da ammazzare. E quindi non è una cosa tanto facile, né anche evidente. E poi, ovviamente, lui sosteneva, come lo dicevi tu, in una maniera molto ferma, lo ripeteva a chi voleva sentirlo, che non aveva mai ammazzato un tedesco. E quindi ho voluto capire il perché di questa affermazione, non solo se fosse vera o meno. Perché lui era un riservista. Sì, lui era un riservista, cioè aveva avuto effettivamente la possibilità di posporre il suo servizio militare, e quindi non è entrata direttamente nelle truppe come avrebbe dovuto fare nel 1913. Ma la riserva non significava più niente dall'inizio della guerra, hanno mischiato tutte le truppe, e lui si è ritrovato in prima linea dall'inizio, cioè da gennaio 15, quando è arrivato sul fronte, era in prima linea, e io ho ricercato appunto tutti i giornali del suo reggimento, della sua divisione, delle armate in quale partecipava, dove raccontano che appunto il suo reggimento è stato coinvolto non solo nella difesa delle linee, ma anche più spesso negli attacchi. Uno degli aspetti che secondo me è più interessante del tuo libro è questo descrivere il passaggio repentino dalla pace alla guerra, che, esatto, che in Tobì è proprio viene personificato questo dramma, ma improvviso. Sì, infatti è quello che mi interessava anche, è di vedere come si poteva passare da uno stato, come dicevi tu quando hai fatto il riassunto all'inizio della trasmissione, di un stato di pace, dove la gente poteva viaggiare in un modo estremamente facile, perché non c'era bisogno di un visa, per esempio, per passare da un paese a un altro. Io racconto come in meno di 3 settimane lui ottiene un lavoro in Germania, sì, scrivendo solo delle lettere, con una rapidità nello scambio, in meno di 15 giorni si scambiano 6 lettere e lui è assunto. Parte in Germania, arriva verso il 5 maggio, trova un posto per alloggiare, il 15 maggio comincia a lavorare, non ha problemi, va qualche minuto in comune per fare i documenti, poi fissano le sue tasse e lavora, non c'è problema, e lavora con altri italiani e altre nazionalità nella ditta dove lavora. E poi dopo qualche settimana si trova in trincea. E poi dopo effettivamente un anno passato così a viaggiare, a divertirsi con i suoi amici, faceva anche parte di un club di ginnastica che era un club molto nazionalista tedesco, ma dove lui è stato accettato a braccia aperte e ha fatto delle mostre, degli eventi, sì, con loro. E quindi si ritrova qualche mese dopo a dover affrontare di fronte a lui delle truppe della Baviera, cioè i suoi amici di fronte, quindi effettivamente c'era un problema. Poi sapere se lui non ha ammazzato un tedesco, penso piuttosto, dopo aver fatto tutta l'inchiesta, che non ha ammazzato volontariamente un tedesco, cioè certo, non è stato un cecchino, anche se lui era un tiratore di elite, tirava molto bene, ecco, ma si è rifiutato di farlo, sembra. La vita di trincea l'abbiamo appresa dai libri, dai film. Qual è la vita di trincea di Tobì, quale esce dal libro? Quella di tutti gli altri soldati, cioè di ritrovarsi in situazione che noi non possiamo neanche immaginare, cioè piove oggi a Roma, per loro pioveva sempre, ma quando pioveva non aveva nessun posto per mettersi a riparo, faceva freddo, c'era il fango, c'erano i morti, i pezzi di morti, c'erano tutti questi non si potevano levare le scarpe per una settimana, non si potevano lavare, e poi dovevano subire questi bombardamenti, perché si parla molto spesso nella mitizzazione, diciamo, della guerra, di questi attacchi alla baionetta, c'erano pochissimi di questo, ce n'erano ovviamente, ce ne sono stati, ma 80% dei morti sono morti sotto i bombardamenti, e le bombe erano presenti ogni giorno, quasi alcune volte ogni minuto. Racconta per esempio un momento nel periodo di Natale 15, si ritrova con 4.000 bombe al giorno, 4.000 bombe, cioè è permanente, cioè una situazione assolutamente folle. E come ha fatto poi nel corso degli anni, come dire, a recuperare anche un equilibrio dopo questa drammatica esperienza? Questo è una grande sorpresa e anche uno dei punti del lavoro in questo libro, dove effettivamente questa gente per sopravvivere si è costruito una vita normale quasi, e dopodiché hanno avuto grande difficoltà a parlare di questo, hanno tenuto all'interno di loro, avevano grande difficoltà a raccontare la loro vita, quello che era successo. È un po' quello che poi avverrà dopo la Seconda Guerra Mondiale con la memoria della Shoah. Esattamente. Esattamente, quelli che hanno sofferto non erano in grado veramente, certo, di parlare, quelli che hanno parlato e quelli molto spesso che non avevano fatto un granché. E questo è anche un punto molto interessante, sì, sulla mitizzazione. Quello che è interessante è che dopo la guerra, lui immediatamente dopo la guerra si è sposato, ha avuto dei figli e ha preso come governante per i suoi figli una austriaca. Anche perché parlava benissimo il tedesco, quindi. Sì, ma questo vuol dire che nonostante la guerra che ha fatto anche contro gli austriaci quando era sul Piave con le truppe italiane, non aveva nessun odio per loro. E questo è anche un messaggio estremamente importante, che questa gente ha capito molto molto molto presto che la gente di fronte a loro non la volevano fare neanche loro la guerra, che non erano da odiare, che dovevano ammazzarci, ma che in fondo, certo, erano fratelli. Un'ultima domanda, Thierry, che riguarda il valore che emerge dal tuo libro dell'epistolario. Cioè, Tobì comunica, come facevano tutti i ragazzi in trincea in quegli anni, con le lettere, col padre, ed è, come dire, un contatto costante quello che emerge. Assolutamente, ci sono miliardi di lettere che si sono scambiati durante il conflitto, e questo era un elemento fondamentale per rimanere vivi. Vivi non solo in termini fisici, ma vivi in termini psicologici, cioè conservare i legami di vita che esistevano con la famiglia, con gli amici, con tutto quello che era normale, fuori dell'inferno. Era un modo di estrarsi della situazione in quale si trovavano, come provavano di considerare quello che facevano come un mestiere, con delle abitudini, con degli orari, con tutta una serie di cose che faceva che anche quando andavano in licenza era come se partivano in vacanze, cioè ritrovare un livello di vita più o meno normale. Bene, allora grazie ancora a Thierry Vissol per questa interessante conversazione sul suo libro, che ricordiamo si intitola Tobì, dalla pace alla guerra 1913-18, storia ed esemplare di un qualunque soldato d'Europa. Buonasera e grazie ancora. Grazie a te, Dino.